Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, ben ritrovati a Salva Danaio, una nuova puntata insieme, ben trovati da Deborah Rosciani. Nei prossimi giorni, quindi tempistica perfetta rispetto alla scadenza del 30 giugno, fissata dall'intesa Stato-Regioni, il Veneto e l'Umbria presenteranno il loro piano casa. Hanno già provveduto la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano, tutte pronte con le nuove regole per consentire gli ampliamenti del 20% delle villette e la demolizione o la demolizione e ricostruzione con premio di volume. Anche la Lombardia avrebbe in vista il traguardo, per le altre regioni c'è invece qualche ritardo, c'è una situazione che potremmo definire così a macchia di leopardo in Italia. E tutto questo per introdurre che cosa? Il famoso piano casa, che fine ha fatto? Molti ascoltatori ci hanno chiesto di tornare sull'argomento per capire a che punto sono le regioni in cui abitano e se quindi sono nelle condizioni di cominciare a chiamare un architetto, un progettista e ipotizzare l'ampliamento della propria abitazione. Allora, per quello che è dato sapere fino a questo momento, noi abbiamo deciso di tornarci e fare il punto della situazione con il nostro Cristiano Dell'Oste, con l'avvocato Guido Inzaghi, socio dello studio DLA Piper, e spero di aver detto tutto correttamente, avvocato, perché so molto che devo corretto. Dirlo all'americana, responsabile del Dipartimento Diritto Urbanistico dello studio, e l'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocon dell'Associazione Italiana Condomini. 800 24 00, condomini o condomini, Cristiano, mi sbaglio sempre, dove devo porre l'accento? Condomini, ho detto bene. Avvocato Cira, allora già che ci sono la saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. Buongiorno. Lei dice, insomma, dopo tanti anni che mi invita ancora non si ricorda dove deve mettere l'accento, è che quando lo dico mi viene sempre il dubbio. No, ma va bene tutte e due, sia condomini che condomini. Esattamente, perché poi la tutela è esattamente questa, insomma, è duplice, contemporanea. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande e gli interventi degli ascoltatori, ma lo sapete, ci potete pure scrivere al 349 238 6666. Prima di partire con i numeri di cui parleremo questa mattina, 20%, 35%, andiamo ad altre percentuali un po' più contenute, che sono quelle dei rialzi della borsa di questa mattina. La partenza non era stata per niente incoraggiante per l'Europa, adesso invece i listini europei ci provano in maniera un po' più decisa a rimbalzare dopo i cali degli ultimi due giorni, tra cui quello di lunedì che è stato piuttosto forte. E allora abbiamo un più 0,7% a Parigi, un più 0,7% a Francoforte, Londra rimane più indietro, più prudente, più 0,3% per la City, Milano, FTSE MIB, più 0,87%. Abbiamo un rialzo di 4,5 punti per Tenaris, un rialzo del 3,38% per Saipem, per entrambi i gruppi, nuovi lavori, nuove commesse importanti ottenute per Tenaris, nuovi contratti per un valore complessivo di 20 milioni di euro. Euro per l'Olanda, per alcuni paesi come l'Olanda e la Germania. Saipem più 3,38, invece in questo caso abbiamo appreso appunto che il gruppo ha acquisito nuovi contratti nelle perforazioni in Kazakhstan, in Congo, in Algeria. Luxottica più 2,61, Autogrill più 2,57, Geox più 2,47, Unicredit più 2,30. Pirelli in rialzo dell'1,90 e CIR più 1,84, mentre continuano ad essere piuttosto deboli Ansaldo e Finmeccanica, che perdono in media l'1,7%. Italcementi sta perdendo un punto, Snam e Rete Gas perde quasi un punto, meno 0,8 per Telecom, meno 0,57% per Mediaset. L'euro stamattina era partito a razzo, subito si è collocato a 1,41 sul dollaro, adesso è leggermente al di sotto di questa soglia, 1,40,70. Oggi abbiamo la riunione della Banca Centrale Americana, si attende anche di conoscere che cosa deciderà di fare la Federal Reserve relativamente a questo programma varato di riacquisto di titoli del debito del tesoro americani. Ma soprattutto vedremo cosa farà sui tassi di interesse, anche se essendo ormai praticamente allo zero è difficile che potranno essere presi ulteriori provvedimenti di politica monetaria espansiva. Il petrolio è sotto i $70, intorno ai 69, lasciamo la borsa, lasciamo il mercato, andiamo adesso a parlare di casa, esattamente di piano casa. Toscana, Umbria e Veneto. A meno di una settimana dal termine, sono queste, accanto alla provincia autonoma di Bolzano, le uniche regioni ad aver tagliato il traguardo del piano casa, dotandosi di regole per consentire gli ampliamenti del 20% delle villette e la demolizione e costruzione con premio di volume. A queste potrebbe aggiungersi a breve la Lombardia, che prevede di arrivare puntuale a fine mese, quando scadrà l'intesa siglata ad aprile con il governo, con cui le regioni si sono impegnate a varare le proprie leggi per disciplinare gli ampliamenti previsti dal piano di rilancio dell'edilizia. E le altre regioni? Nessuna resta a guardare, anche se ognuna sembra muoversi per conto proprio e con una certa calma. Se in tempi brevi si prevede il via libera del Friuli Venezia Giulia, che come la Sicilia ha meno vincoli grazie allo statuto autonomo, in fortissimo ritardo invece sono Calabria, Liguria, Molise e Sardegna, ancora in fase di studio. Accanto alla tempistica, un altro problema da considerare è quello che ciascuna regione ha di fatto interpretato con grande libertà e autonomia l'intesa raggiunta con il governo il 1° aprile. Ed ecco che sono stati ammessi ai lavori non solo le villette uni o bifamiliari, ma in qualche caso tutti i condomini, senza distinzione né limiti di metratura. Si va dunque dal Veneto, rimasto fedele alla proposta originaria di Berlusconi, che regala il 20% anche nei condomini e a tutti gli edifici, capannoni compresi, fino alla severa Toscana, in cui gli allargamenti sono consentiti senza deroghe ai piani e con standard alti di risparmio energetico. La legge lombarda è al momento la più innovativa. Non solo consente gli ampliamenti, ma punta sul riutilizzo di edifici abbandonati e incrementa la dote di alloggi pubblici. 800 24 0024 è il numero verde che ha subito prontamente chiamato. Se lo avessimo, gli potremmo consegnare un premio stamattina. Giampiero da Firenze, che saluto. Allora, guardi, stamattina in maniera del tutto inedita, qualche volta lo faccio, parto anziché con gli ospiti, con i nostri ascoltatori. Giampiero, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Chiamando da Firenze, ho già una vaga idea di quale regione vogliamo parlare. Della Toscana. Ho due quesiti da porre. Il primo riguarda, io sarei interessato a demolire una villetta e ricostruirla approfittando dell'incentivo del 35%. Sì. Il mio tecnico mi ha detto che al momento non si sa se la regione, la legge della Toscana che è approvata e pubblicata, deve aspettare o si deve aspettare anche la regione, la legge nazionale. Mm. Il secondo quesito era, nei vincoli che ha messo la regione toscana di ridurre ulteriormente del 50% sì, il limite delle trasmittanze, volevo sapere, cioè è impossibile a sentire, appunto i miei tecnici mi hanno detto, dice, ma è molto difficile poter usare questo. Volevo qualche lume da voi. Allora Giampiero, se andiamo con ordine, prima di arrivare proprio al dettaglio tecnico dei parametri di trasmittanza energetica, cioè non so neanche di che cosa sto parlando peraltro, andiamo un po' ai termini generali. Allora Cristiano, parto con te, poi arriveremo bene alla Toscana. Situazione a macchia di leopardo, l'ho definita prima. Qualche regione è stata molto virtuosa, si è mossa nei tempi che la conferenza Stato-Regioni si era data appunto per disciplinare la questione a livello locale, a livello regionale, altri invece sono molto indietro. Sì, diciamo che è molto corretto partire a parlare di piano casa chiedendosi veramente a che punto siamo, perché è facile perdersi tra tutti i vari aggiornamenti e le varie puntate di questa che ormai sta diventando una lunga serie di appuntamenti. Diciamo che si è iniziato a parlare di piano casa a marzo, quando il governo aveva ipotizzato l'iniziativa di un decreto legge di semplificazione delle procedure edilizie e le regioni si erano immediatamente sollevate. Allora si è cercato di avere un percorso condiviso, si è arrivati così a firmare appunto l'intesa del 1° aprile tra il governo e le regioni, che prevedeva che entro il 30 giugno le regioni adottassero le proprie normative. Le regioni di fatto si sono impegnate. È importante dire che il testo dell'intesa rappresenta soltanto una base. Infatti nell'intesa c'è scritto che le regioni adottano preferibilmente i contenuti dell'intesa, quindi hanno autonomia e possono decidere di regolare diversamente la materia. E va detto anche che anche il termine del 30 giugno non è un termine perentorio. Tassativo, certo. Ovviamente, anzi, il processo legislativo è molto complesso, quindi di fatto noi vediamo che la Toscana, citata cui si riferisce adesso, l'ascoltatore, sì, esatto, ha già emanato la legge, ha già concluso l'iter, ma è l'unica regione, se si esclude la provincia autonoma di Bolzano, che peraltro ha scelto una via un po' più semplice perché ha fatto un unico articolo nella finanziaria finanziaria regionale, delegando alla Giunta il compito di fissare tutti i dettagli, quindi ha scelto un percorso diverso. Poi abbiamo 8 altre regioni che hanno già presentato i disegni di legge in Giunta e che stanno provando in modo più o meno rapido ad arrivare alla legge regionale, e poi le altre che sono in stato più o meno avanzato di definizione del disegno di legge. In tutto questo bisogna però ricordarsi che nel frattempo quel decreto legge del governo è finito un po' nel dimenticatoio, ma potrebbe essere ripescato e potrebbe arrivare a semplificare le procedure edilizie. Certo, i tempi si stanno rivelando molto lunghi anche per l'iter legislativo, ma anche insomma, perché ovviamente poi si sono contrapposti anche interessi di natura ambientalista, certo. Ci sono state tutte le polemiche che conosciamo. Noi stamattina ovviamente nel merito di queste non entriamo, perché a Salvadanaio non lo facciamo mai. Quello che cerchiamo di fare è capire se davvero le famiglie che hanno intenzione di approfittare di queste opportunità adesso sono nella condizione di poter avviare qualche progetto con il proprio, certo, architetto di fiducia, oppure aspettare ancora un po' in attesa che dopo lo Stato e dopo le regioni, avvocato Inzaghi, anche il comune di residenza magari può disciplinare la questione in maniera diversa? Assolutamente sì. Con la sola eccezione della regione Toscana, sulla quale poi torniamo in risposta, esatto, per rispondere alla domanda, certo, dell'ascoltatore, le bozze di leggi regionali oggi a nostra conoscenza sono comunque rimesse alla valutazione dei singoli comuni, che potranno individuare ambiti o zone del proprio territorio o anche singoli edifici ai quali non applicare gli incentivi volumetrici oggetto del piano casa, oppure applicarli limitatamente o imponendo magari particolari accorgimenti non solo rivolti al consumo al risparmio energia elettrica, al risparmio energetico, ma anche alle caratteristiche estetiche e alla qualità, uh-huh, architettonica degli edifici. Quindi Gian Piero che si faceva tante domande, intanto bisogna... No, la Toscana abbiamo detto che rappresenta un'eccezione, sì, perché qui non serve alcun vaglio comunale. Sì, perché il vaglio comunale è già avvenuto a livello regionale. La regione Toscana, come è stato detto nella scheda di presentazione, ha introdotto una deroga limitata alla disciplina urbanistico-edilizia comunale. Infatti, sempre con la preclusione dei centri storici e delle aree assolutamente inedificabili, gli incrementi volumetrici sono consentiti tanto nell'ampliamento del 20% quanto nel caso di demolizione e ricostruzione che interessava l'ascoltatore, sono consentiti solo in quelle zone che già prevedono l'ampliamento e la demolizione e ricostruzione nei singoli regolamenti comunali, piani regolatori o comunque disciplina di governo del territorio. Ci si potrebbe allora chiedere: ma dove sta la deroga in Regione Toscana? La deroga sta nel fatto che può essere che un intervento di demolizione e ricostruzione e incremento sia già avvenuto nel passato, quindi questo bonus volumetrico già previsto sia già stato sfruttato, ora la legge toscana consente di utilizzarlo una seconda volta. Quindi la deroga è soltanto quantitativa. Negli ambiti in cui gli interventi di ampliamento sono concessi, in generale, ma magari nel caso specifico già sfruttati, la deroga consente di utilizzarli. Tra l'altro poi proprio grazie alla consulenza dell'avvocato Inzaghi faremo un po' di chiarezza anche sui termini che stiamo utilizzando, che cosa vuol dire parlare di ampliamento, che cosa vuol dire approfittare di un aumento di volumetria, quindi entreremo nel merito anche di questo. Già moltissimi ascoltatori in attesa, però devo sentire anche l'avvocato Cir. L'avvocato, allora, per me che abito in un appartamento condominiale, siamo 8 piani, una quarantina di famiglie, se io volessi chiudere il terrazzo di casa mia ho l'opportunità per poterlo fare, oppure insomma questa facoltà non ce l'ho? Ma ecco, attenzione, mi sembra che tra i vari disegni, progetti delle regioni e anche quello più generale dello Stato, tanta confusione, tanti dubbi ancora esistono. L'unica cosa però che rimane ferma è la disciplina del condominio. Cioè, attenzione, nel senso che possiamo fare tutto, ma comunque dobbiamo fare i conti con le regole del condominio. Parlo del regolamento, parlo dell'assemblea, parlo delle parti comuni, quindi tanto per ad esempio posso ampliare il mio balcone, il mio terrazzo, se questo me lo consente il regolamento di condominio, se questo comunque me lo consente l'assemblea, cioè tutta la normativa del piano casa mi dà il via libera sotto il profilo, posso dire, urbanistico. urbanistico, ma poi mi rimane la disciplina particolare del condominio con la quale necessariamente mi devo confrontare. Certo, benissimo. Allora, abbiamo, come dire, rimesso un po' in pista tutta la questione dando conto della, dei termini, diciamo, molto generali, poi ovviamente cominciamo ad entrare nel particolare con i nostri ascoltatori. Sempre a proposito di regioni, visto che abbiamo, come dire, definito la questione secondo macro aree, oppure anzi macro tempistica, regioni virtuose, regioni un po' ritardatarie, secondo i tempi che sono stati dettati dalla conferenza Stato-Regioni, sentiamo un po' Mario dalla provincia di Ancona, perché gli ascoltatori lo sanno, io sono di questa zona e non è che sia particolarmente virtuosa la regione Marche. Mario, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Senta, io sono abito in una zona della regione Marche dove il comune ancora non ha definito quasi per la metà, non per poco, i condoni relativi al 1984, la famosa legge 47. Mi stanno dicendo qui nel comune che questa nuova normativa non opera per quelle persone che ancora non hanno definito il condono. Premetto una cosa, che per quello che mi risulta i condoni sono stati presentati allora quasi completi di tutto, il comune non ha mai richiesto documentazione per i successivi 10 anni, non per i 4 anni come prevedeva la legge, per cui c'era il silenzio assenso da parte del comune per rilasciare sia l'abitabilità sia le opere condonate, purché logicamente non in contrasto con i vincoli di legge nazionale sulle zone ambientali. Adesso questa legge, io non conosco effettivamente la Regione Marche come abbia operato, non credo che abbia ancora operato, no. Però mi rimane comunque il dubbio che in alcuni comuni questa cosa possa andare avanti, perché le case ancora non sono in regola dal punto di vista urbanistico in funzione al primo condono, agli altri due successivi. Abbiamo capito, i miei ospiti hanno capito perfettamente la questione. Allora, volevo sapere da loro cosa succederà, insomma, devo aspettare ancora un po' di tempo. Intanto, per quello che riguarda il piano casa, la Regione Marche non ha ancora legiferato, Cristiano Dell'Oste. La Regione Marche è una di quelle che non hanno ancora adottato neppure il disegno di legge. In realtà nelle Marche un testo esiste, però una bozza ancora non ufficiale, che è stata sottoposta alle autonomie locali, alle imprese, alle cooperative di costruttori. Avrebbe dovuto finire in giunta l'altro ieri, lunedì. In realtà adesso sono alle prese con il bilancio, perché anche queste sono le priorità delle varie regioni. No, hai fatto una precisazione importante, perché poi non è che la regione, il presidente e la giunta una mattina si alzano e legiferano. Devono sentire tutta una pluralità di soggetti interessati e coinvolti nella questione, certo, che non è indifferente. Assolutamente, l'iter varia anche qui da regione a regione, ma ovviamente è buona prassi sentire i comuni, sentire le province, sentire le categorie produttive, quindi le associazioni dei costruttori. Ecco, quindi praticamente la regione ancora non ha legiferato. Relativamente invece al rapporto della situazione che il nostro ascoltatore ci chiedeva, lui abita in un comune che non ha ancora definito la questione del condono, la legge 47. Io non conosco questa questione, avvocato Inzaghi, mi aiuta lei? Sì. Allora, il piano casa nella sua versione dell'intesa Stato-Regione esclude gli edifici abusivi dagli incentivi appunto volumetrici del piano casa. Bisogna però intendersi, sono esclusi radicalmente gli edifici che effettivamente sono pienamente abusivi. Quelli condonati, quelli o oggetto di condono? Quelli condonati condonandi sono in una famiglia a sé, quelli condonanti sono in una terza famiglia. Nel momento in cui venisse rilasciato il condono, questi entrerebbero di diritto nella famiglia degli edifici comunque legittimi, condonati, sani. E qui bisogna attendere cosa dirà la legge regionale. La legge regionale toscana, ad esempio, ha preso in considerazione il caso e ha detto che rispetto agli edifici condonati, quella parte di volumetria sanata non costituisce la base su cui si calcola il 20%. Fosse 100 l'edificio condonato o la porzione di edificio condonato, questo 100 non produrrebbe 20. Per gli edifici condonandi, fin tanto che il comune non ha concluso l'iter, non si possono ritenere, a mio avviso, abusivi. Quindi qualora, anche se le Marche avessero avuto già la disciplina regionale, questo comune si ritrovava in una situazione particolare per cui non poteva essere data facoltà agli abitanti di queste abitazioni non ancora condonate definitivamente di poter ampliare. Bisognerebbe vedere la legge regionale. Se la regione regionale fosse come la Toscana, come quella toscana, Ci si potrebbe valere del piano casa, ma non si potrebbe calcolare il 20% sulla porzione condonata. Che generalmente è tutta. Può essere anche un ampliamento condonato, certo, piuttosto ampliamento. Che un cambio d'uso, molto diffusa questa ipotesi. Rispetto a quel comune della regione Marche che non ha ancora risposto ai condoni, ovviamente ci si possono. Fare altre cose, impugnare il silenzio rifiuto, oppure porsi la domanda se per caso il decorso del termine abbia già comportato il rilascio del condono per silenzio assenso. Penso fare una bella assemblea pubblica che dia anche un incentivo a velocizzare questo comune a sbrigare questa questione. Ritorniamo a Salva Danaio, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Questa mattina siamo ritornati sul piano casa per capire intanto che fine abbia fatto, come stanno legiferando le regioni. Stiamo cercando di capire chi lo ha fatto, che disciplina ha adottato, chi sta facendolo, che disciplina sta adottando, e poi c'è tutto il groppuscolo delle regioni un po' ritardatarie che, anche se questo lo abbiamo detto, non era un termine tassativo, non stanno riuscendo a rispettare il termine indicato dalla conferenza Stato-Regioni del 30 giugno. Allora, tra problematiche varie che abbiamo affrontato stamattina, ovviamente c'è anche l'ambito condominiale che vi piace molto. Nicola dal provincia di Milano, benvenuto. Sì. Buongiorno. Grazie per l'intervento. Io volevo chiedere al vostro esperto. Sì. Io abito in un piccolo condominio, perché sono solo 5 appartamenti, però io abito al piano sopra, praticamente un attico, dove ci sono 2 terrazzi e non so quanto sono vincolate, che posso fare qualcosa su questi terrazzi, perché l'anno scorso praticamente ho fatto una pergola, nonostante che ho fatto anche la DIA in comune, e questo mi hanno contestato anche quello. Non so come come io potrei utilizzare al meglio un po' anche questa legge qua. Volevo chiedere qualcosa all'esperta, e anche se per caso mi può dire qualcosa, perché nonostante ho fatto una pergola in legno con la DIA e tutto, e mi hanno contestato anche questo. Ma chi gliel'ha contestata? L'assemblea di condominio, Nicola? Ma penso dei 5 appartamenti, non so neanche se è abbiato l'organizzazione. No, veramente noi non abbiamo neanche l'amministratore, anche perché sono i 5 appartamenti, però i proprietari sono solo 3, abbiamo 2 ho per capito. Ogni... Quindi chi le ha... L'ha contestato gli altri due proprietari. Lo so, perché lei ha fatto il lavoro senza dire niente a nessuno? No, io gli ho chiesto, però loro mi hanno fatto 2 domande, mi hanno detto 2 cose proprio assurde. Ha detto... Noi in tanti anni che la casa è così, vorremmo vederla ancora così anche da lontano. Perché io ho acquistato questa attica da un signore che dove non l'ha utilizzato mai questa casa qua. Nicola, guardi, io ho questa impressione che nonostante tutte le opportunità che questa nuova normativa le può aprire, se non ci si mette d'accordo nel palazzo, io temo che lei non potrà fare niente. Avvocato Cirla, ho smontato così tutti i sogni di Nicola? No, effettivamente ha colpito nel segno, nel senso che, come dicevo poc'anzi, le regole vanno rispettate non solo quelle sotto il profilo urbanistico, ma anche quelle del condominio. Nel caso in specie, è chiaro che comunque, indipendentemente dalla presenza o meno dell'amministratore, che in ogni caso consiglierei anche nella fattispecie particolare, perché comunque mi serve come un po' ammortizzatore delle idee di tutti i condomini, siamo in presenza di un condominio, no? Perché già quando ci sono già 2 condomini siamo nel mini condominio, ed ecco che allora dobbiamo fare i conti con le regole. Le regole quali sono? Quello del rispetto del decoro architettonico, quello della eventuale sopraelevazione, che deve tener conto sia sempre del decoro architettonico ma anche dei problemi di staticità dell'edificio, insomma delle regole che vanno rigorosamente rispettate. Quindi, per quanto riguarda l'ascoltatore, è ovvio che deve avere un preventivo consenso, e in questo caso non ce l'ha, da parte degli altri condomini. Infatti. Ma non è che gli altri condomini si possono opporre così semplicemente, devono anche motivare. Al momento mi pare che di capire che non ci siano ostacoli di un regolamento che vincola l'immobile, perché non essendoci l'amministratore, mi sembra che sia un po' autogestito come edificio, escludo che ci sia anche un regolamento di natura contrattuale. Infatti. Che vincoli l'immobile, l'estetica. Quindi l'eventuale rifiuto da parte degli altri condomini non deve essere considerato rigorosamente un vincolo. Quindi quantomeno un'apertura, Nicola, ce l'ha. Certo. Gli altri, i vicini di casa, gli altri condomini si oppongono, devono comunque motivare. In che modo devono farlo formalmente, avvocato? Devono mettere giù un documento per iscritto? Ma certamente contestare formalmente perché teniamo presente che anche qua non può essere manifestata una volontà così uno per i fatti suoi. Il consiglio che do è quello, comunque richiedono la convocazione di un'assemblea, tenuto presente che se non c'è l'amministratore ciascun condomino può convocarla in qualsiasi momento, e allora la volontà positivo o negativa degli altri condomini venga espressa nella sede assembleare. Da lì poi tutti i provvedimenti che si possono prendere nei confronti della delibera assunta o della volontà negativa espressa. Non abbiamo fatto ancora nessun tipo di lavoro grazie al piano casa, ma già stiamo pensando oltre a tutte le contestazioni possibili che possono arrivare. Siamo incredibili veramente. Allora, volevo sentire la domanda di Luigi da Grosseto, perché mi permette di fare tutta una serie di esempi invece con l'avvocato Inzaghi sui lavori che si possono fare a seconda dell'abitazione che si occupa. Luigi, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Ho qui il telefono da Grosseto, quindi la regione toscana. La Toscana, la severa Toscana l'ha definita Cristiano Dell'Oste. Sì. Dunque, la legge toscana è già stata emanata per quanto riguarda il piano case. Sì. Però parla, se io non vado errato, a parte in parte un po' ha già risposto l'avvocato, comunque la puntualizzo. Parla di locali, immobili o monofamiliari o bifamiliari. Sì. Ora, siccome io abito in una villetta a schiera, cioè siamo 9 appartamenti però attaccati l'uno all'altro, quindi pur sempre che ritengo io, anche se abbiamo pochissima roba in comune, però è pur sempre un condominio sdraiato, diciamo. Sì, orizzontale. Ecco, se io volessi chiudere una terrazza posta sul retro, una chiusura a vetri o una piccola tettoia, lo posso fare, però credo, ecco, a questo punto ci voglia l'autorizzazione dei condomini, ma è sufficiente? Oppure la legge non la contempla? Allora Luigi, qui abbiamo diversi ordini di problemi. Partiamo subito intanto con la definizione dell'abitazione che il nostro ascoltatore occupa. È una villetta a schiera. Noi ci eravamo preparati, avvocati Inzaghi, degli esempi, villetta monofamiliare, la bifamiliare, la villetta a schiera come... Dove sì, è collocata? Ma stando sulla Toscana sta nella tipologia diversa dagli edifici monofamiliari o bifamiliari. Ah, quindi un terzo tipo addirittura. Sì, tipologia diversa, che ha un limite poi, che è quello... per poter accedere al bonus volumetrico, la possibilità di ampliamento, che il limite è rappresentato dall'obbligo di non superare la superficie utile lorda di 350 metri quadrati. Quindi se questo condominio orizzontale ha una superficie utile lorda superiore a 350 metri quadrati, il bonus volumetrico in non Toscana può non può essere goduto. Quindi anche in questo caso dobbiamo così proprio far tramontare a Luigi tutte le speranze di poter godere dell'ampliamento della propria abitazione. La Toscana è severa, ma anche la regione Lombardia non scherza sotto questo punto di vista. Anche tornando all'esempio dell'ascoltatore precedente, per gli edifici diversi dai mono o bifamiliari, la regione Lombardia in bozza, bisogna attendere la legge definitiva, ha posto un limite pari a 1000 metri cubi. Per gli edifici con volumetria superiore a 1000 metri cubi non è consentito lo sfruttamento dell'ampliamento del bonus volumetrico. 1000 metri cubi che possono essere tradotti in 330 metri quadrati di superficie. Quindi se l'edificio dell'ascoltatore precedente, che mi sembra di capire fosse un piccolo condominio, assommasse a più di 350 metri quadrati, cosa che mi sembra plausibile, beh, quell'intervento non sarebbe possibile, al di là che per i problemi condominiali a cui si faceva accenno prima, proprio per una soglia urbanistica fissata dalla legge regionale, per quanto in bozza. Avvocato Inzaghi, ammettiamo di abitare in un appartamento che è situato in una palazzina, non so, di 4 appartamenti, 4 famiglie, e abbiamo praticamente una superficie disponibile dei famosi 1000 metri cubi, no? Quindi 330 metri quadri. Ammettendo di poter godere della possibilità di ampliamento, possiamo ampliare complessivamente di 66 metri quadri, ma come si distribuiscono poi tra le varie famiglie? Si organizza? Perfetto, tutto quanto ha detto è lasciato dalla libera negoziazione delle parti. Certo non può valere il diritto del chi primo arriva prende tutto, e nemmeno è automatica una ripartizione pro quota che potrebbe, nell'esempio da lei fatto, ipotizzo queste 4 unità immobiliari. Infatti cosa facciamo? Una da 100, una da 90 e via scalando, una da 80, una 60, distribuire la volumetria 20 all'uno, 18 all'altro e 16 e 12 agli ultimi due. Questo va benissimo, il comune accetterebbe una denuncia di iniziatività, un permesso di costruire che prevedesse un ampliamento di questo tipo, però devono essere d'accordo tutti, e si torna ancora al tema contrattuale che l'avvocato Cirla ben ha definito prima. La parola condominio è magica, sempre a Salvadanai, un po' come mutuo, un po' come pensione. Appena si pronuncia la parola condominio ci si scatena e ci sono molti ascoltatori che stanno ovviamente legando le loro domande al tema di questa mattina, ponendoci diversi quesiti. Avvocato Cirla, Luca ci chiede se i condomini sono d'accordo, allora alla luce di tutte le regolamentazioni del piano casa che abbiamo definito questa mattina, anche se non cita la regione, Luca, se i condomini sono d'accordo, si può innalzare un piano, cioè un palazzo, si può innalzare così senza alcun problema? Se i condomini sono d'accordo, i palazzi accanto non possono dire niente? Ma certo, ferme tutte la normativa urbanistica, ovviamente, tutti i permessi che devono essere richiesti, se diciamo i mille millesimi via l'unanimità sono d'accordo nel sopprelevare, l'unico problema è semmai un problema di luce nello stabile vicino, una volta rispettate le distanze che però in linea di massima tra stabile e stabile ci sono, quindi la sopprelevazione è ammessa sempre che, ripeto, ci sia un problema di staticità dell'edificio che lo consenta. Allora, il problema è trovare mille millesimi tutti d'accordo nel costruire un piano. Infatti ed è praticamente impossibile, non a meno che il palazzo insomma sia composto da pochi appartamenti, esatto, poche famiglie, ma non è detto che qualcuno che dice no non ci sia. Allora, Claudio da Pisa ci fa ritornare di nuovo in Toscana, tra l'altro alcuni aspetti che c'erano stati posti anche dal primo ascoltatore che ci ha chiamato, non abbiamo ancora affrontati. Claudio, benvenuto, lei è un geometra, un tecnico, quindi insomma studia dalla mattina alla sera questa materia. Chissà quanti articoli di Cristiano Dell'Oste ha letto, sole 24 ore. Buongiorno. Non solo quelli di Cristiano, certo. Claudio, ci dica. Buongiorno. Niente, no, io volevo solo così sollevare alcune perplessità su questa legge, perché diciamo è vero che la Toscana è arrivata prima, quindi insomma poi abbiamo una normativa urbanistica molto efficace, molto, però in questo piano casa diciamo ci sono molti vincoli, e uno secondo me è diciamo particolare, perché vieta, mi sembra aver capito, il discorso dell'ampliamento del 35% sulle demolizioni, sì, laddove c'è previsto il piano attuativo, cioè vuol dire una lottizzazione o un piano di recupero. Ora, i piani di recupero di norma sono proprio le zone dove si fa demolizione e ricostruzione totale, quindi insomma vuol dire aver diciamo tolto una bella fetta di intervento. E poi più che altro io mi sembra di aver visto che non ci sono incentivi, come era stato parlato all'inizio, per esempio sugli oneri di urbanizzazione, sconti particolari, mentre questi invece tutti gli anni aumentano. E voglio dire, viste le difficoltà generali, finanziamenti eccetera, insomma non è un grande incentivo a intervenire, quindi Claudio, dovrebbe essere una legge per il rilancio dell'economia. Lo so, non è che però d'altronde non si può nemmeno fare, come dire, edificazione selvaggia. Su questo punto almeno credo che possiamo essere un po' tutti d'accordo, sia con gli ambientalisti ma anche con le regioni, che naturalmente poi non possono deregolamentare totalmente la questione solamente per permettere il rilancio economico. La Toscana peraltro, se è così severa e così rigida, Cristiano, è perché comunque è una regione molto bella, non è che si può, certo, vedere poi mattoni ovunque. Però certo, ecco il tema di Claudio, che dice che non si può permettere, non permette alla regione toscana la demolizione e ricostruzione col premio del 35% in zone dove c'è recupero edilizio. Non ho capito bene adesso il tema, c'è l'avvocato Inzaghi che ha la legge toscana proprio, sì, sotto gli occhi, non abbiamo ritrovato questo punto. Beh, comunque al di là del divieto, che la norma in positivo è già chiara in questo senso, perché consente l'ampliamento del 35% a seguito di demolizione e ricostruzione solo negli ambiti che già la pianificazione vigente, che già la strumentazione urbanistica vigente, solo per gli edifici negli ambiti in cui la strumentazione vigente consente la demolizione e ricostruzione con ampliamento, il che è molto improbabile avvenga all'interno di ambiti oggetto di pianificazione attuativa, in particolare se la pianificazione attuativa è recente, non dico il piano attuativo, il piano di recupero, il piano di utilizzazione in corso, ma anche quello appena concluso. La disciplina locale farà riferimento alla norma tecnica del piano attuativo, la quale consentirà un indice volumetrico definito senza consentire demolizione, costruzione e ampliamento, il che è sufficiente a escludere quanto oggetto della domanda. Per cui sì, è una scelta del legislatore. Stiamo praticamente facendo una trasmissione che sta diventando quasi un processo, la legge della Toscana. Il Veneto, Cristiano, è stato un caso molto particolare, il Veneto, una pripista. Sicuramente è un caso particolare perché il disegno di legge regionale del Veneto è stato approvato dalla Giunta addirittura prima che prendesse l'iniziativa il governo, quando ancora appunto si era a livello degli annunci e prima ancora che venisse siglata l'intesa Stato-Regioni. Infatti è un testo che va sotto molti aspetti, va addirittura più avanti di quello che c'è nell'intesa Stato-Regioni, in particolare perché consente di intervenire anche sugli edifici non residenziali, quindi i cosiddetti capannoni, e insomma ha dei requisiti energetici decisamente inferiori, addirittura non li menziona, rispetto a quelli della Toscana, ma anche a quelli del Piemonte o a quelli della Lombardia, perché poi i requisiti energetici vengono fissati come dire anche da altre normative. In questo senso la Toscana è molto severa, senza dubbio, ma non è l'unica a pretendere il rispetto di certi standard. Peraltro va detto che il Veneto non è ancora arrivato alla legge. Ah, ecco. Non è ancora arrivato alla legge perché l'iter nel Consiglio regionale si è rivelato molto accidentato. L'opposizione di centrosinistra ha presentato più di 2000 emendamenti e proprio ieri è ripreso l'esame. Ostruzionismo coi fiocchi, insomma, ostruzionismo coi fiocchi. Controfiocchi. Esatto. Peraltro in Veneto non esiste il voto di fiducia, quindi si dovrà in qualche modo trovare un accordo. La maggioranza dovrà scendere a patti, magari rendendo meno, come dire, meno permissiva la legge, o introducendo requisiti diversi. Insomma, dicevamo, ieri in Consiglio regionale è ripreso l'esame della legge. L'obiettivo è andare avanti a oltranza fino a che non si arriva al ad voto finale. Certo. Staremo a vedere di una qualche cornice normativa, insomma. Certo. Paolo da Roma si è comprato un trullo in Puglia. Che cosa ne vuole fare, Paolo? Ci vuole fare una stanza in più? E come fa? No, diciamo che noi, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Abbiamo acquistato questo trullo, abbiamo presentato sui trulli, è possibile fare un ampliamento tecnico in quanto erano accarassati come agrari, diciamo, come tipologia di edifici. Abbiamo presentato il progetto che ci è stato appena approvato 20 sì. giorni fa per l'ampliamento tecnico, riguarda il 10% della struttura, se non vado errato. 10%, sì. Se non vado errato, diciamo, o 10 metri quadri, adesso sinceramente non ricordo bene. Volevo sapere se per poter sfruttare, visto che il trullo è parzialmente va abbattuto e va ristrutturato ai lati, volevo sapere se per sfruttare questa nuova legge bisognava ripresentare un progetto al comune, oppure se si poteva intervenire direttamente senza la presentazione di un ulteriore progetto. Paolo, io la ringrazio molto intanto come sempre per la fiducia che i nostri ascoltatori ripongono negli esperti che io porto a salvadanaio, non certo in me, perché di fronte al trullo eravamo rimasti un po' basiti, ho fatto quasi svenire gli ospiti, però in realtà poi si sono tranquillizzati e vedo Cristiano con un sorrisino furbetto sulla faccia che ci sta a rispondere anche su questo. Cosa no, deve diciamo fare, che Paolo? In realtà in questo caso la risposta purtroppo è molto semplice, nel senso che la Puglia è una delle regioni che non hanno neppure ancora presentato un disegno di legge in giunta, lo farà nei prossimi giorni. Sono circolate diverse bozze anche in questo caso, diverse indiscrezioni, ma ancora nulla di ufficiale, quindi l'iter è ancora un po' lungo, quindi al momento trullo non trullo, la possibilità di un ampliamento non esiste. Poi possiamo coinvolgere anche l'avvocato Inzaghi, perché nel caso specifico dei trulli stiamo parlando comunque di edifici esattamente che hanno una particolare caratteristiche particolari, che quindi probabilmente anche se la legge potrà essere quella pugliese la più permissiva possibile, magari per il trullo potrebbe essere regolamentata in maniera diversa, fare così, porre dei limiti. Ma allora l'intesa Stato-Regione impedisce gli ampliamenti nelle aree di inedificabilità assoluta. Il fatto che al trullo sia stato già consentito un ampliamento lascia pensare che in realtà questa non sia una zona di inedificabilità assoluta. Bisogna comunque attendere la legge regionale per vedere se le aree vincolate, ammesso che questa sia un'area vincolata, siano escluse dall'applicazione della normativa sugli ampliamenti. Se questa preclusione non vi fosse o l'area non fosse vincolata, per quanto si stia parlando di un trullo, per ottenere l'ampliamento consentito dal piano casa è necessario sicuramente presentare un nuovo progetto, una nuova pratica edilizia. La domanda a mio avviso manifesta dei profili di interesse, perché consente anche di chiarire che cosa si deve intendere per ampliamento. Il caso che lei ci ha sottoposto è quasi scolastico. Quello del, molto... mio, del mio balcone o quello del trullo? Quello della volumetria tecnica che accede, del volume tecnico che accede a una volumetria abitabile. Potrebbe essere il balcone o anche il volume tecnico del trullo, perché no? Ecco, tra gli ampliamenti vanno considerati anche questo genere di opere. Quindi la pratica edilizia, l'ampliamento volto a utilizzare un locale tecnico come locale abitabile. Mm-hmm. Anche questo è un ampliamento, anche se si concreta poi in opere edilizie di poco momento. Certo, insomma è un tema molto molto complicato, molto ampio, per il quale devo convocarvi per un'altra puntata, perché quella di oggi l'abbiamo terminata. Sono stata un po' maleducata con l'avvocato Cirla, che ho trascurato nell'ultima parte, ma qualche altra volta invece gli dedico interamente Salvadanaio, per cui so che non si offenderà. Avvocato Cirla, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a Cristiano Dell'Oste e grazie anche all'avvocato Inzaghi per averci aiutato. Oggi la materia è molto complessa, ci risentiamo presto, seguiremo, vi ho promesso, il percorso di tutte le regioni, quindi magari prima delle vacanze ritorneremo di nuovo su questo argomento. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Peter Bescapen, assistenza tecnica. Salvadanaio torna domani, ritorniamo, sì, siete contenti, sui mutui. Buona giornata.